GR24, il sole 24 ore. Ad 84 anni è morta Gae Aulenti. Solo pochi giorni fa la medaglia d'oro all'architettura, fra le sue opere più celebri il Musée d'Orsay di Parigi. Alcuni testimoni parlano di uscite d'emergenza bloccate nell'arena di Madrid. Nella calca della festa di Halloween sono morte 3 ragazze. Su Pomigliano non accetto lezioni di democrazia, dice Marchionne, che compra anche una pagina sulla Nazione. Non ho mai offeso Firenze, dice. Calcio, turni infrasettimanali, vincono Inter e Juve, sabato il big match. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La nostra apertura dedicata alla morte di Gae Aulenti, uno dei nostri architetti più famosi anche all'estero. Avrebbe compiuto 85 anni fra un mese circa, era malata da tempo. La sua ultima apparizione pubblica è il 16 ottobre alla Triennale di Milano, dove le era stata consegnata la medaglia d'oro all'architettura. Torneremo a parlarne ampiamente alle 13.15 dopo le informazioni sul traffico in apertura del GR Spettacoli. È stata la notte delle feste di Halloween, vittime ed incidenti nel mondo. L'esplosione di un bengala tra la folla, questa sarebbe l'origine della tragedia accaduta durante una festa di Halloween nel padiglione sportivo dell'Arena di Madrid, cui partecipavano 10.000 persone. In preda al panico, la gente ha cominciato a fuggire e 3 giovani sono morte soffocate, mentre altre decine di persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Secondo testimoni, solo una delle porte di emergenza era sbloccata, ma la municipalità di Madrid nega. La polizia di Los Angeles ha intanto bloccato 2 sospetti per la sparatoria nel campus della Southern California University. Durante la festa qualcuno ha sparato, ferendo 4 studenti, uno in modo grave. La festa è finita male anche in un antico castello sulle colline fiorentine avvincigliate. Una balaustra è crollata per motivi ancora da chiarire e una decina di persone sono rimaste ferite. Sembra che alla festa partecipassero 1.600 ospiti. Il sindaco di Fiesole, Fabio Incatasciato, ha precisato però che la struttura era autorizzata per 600 persone. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E poco fa si è saputo che un ragazzo veronese di 14 anni ha avuto una mano spappolata per lo scoppio di un petardo artigianale che aveva acceso con altri amici proprio durante i festeggiamenti di Halloween. Un suo amico è stato invece medicato in ospedale per ferite al volto e alle gambe ed alcune ustioni, fortunatamente non gravi. New York cerca di tornare alla normalità dopo il passaggio dell'uragano Sandy. Il governatore dello Stato Cuomo ha stabilito che oggi e domani si viaggerà gratis sui mezzi pubblici e stanno tornando operativi anche i voli dall'Italia verso la Grande Mela. Il sindaco Bloomberg ha confermato che la maratona di New York il 4 si correrà regolarmente. Intanto Obama avanza nei sondaggi. L'uragano Sandy ha certamente aiutato Barack Obama, a questo punto lo si può dire anche grazie a un sondaggio della ABC che ieri per la prima volta dopo l'uragano ha interpellato un campione di americani e il 75% ha risposto che sì, il presidente Barack Obama si è comportato in modo impeccabile nella gestione della crisi legata all'uragano. Il presidente è anche andato in New Jersey e si è aggirato per lo Stato nelle zone più devastate con il governatore Chris Christie, un repubblicano doc che però in questo caso è stato straordinariamente elogiativo per l'operato di Barack Obama. Dal punto di vista della corsa elettorale, quel che sta succedendo è che Barack Obama improvvisamente è in recupero, ma non soltanto per Sandy, ma perché già nei giorni precedenti all'impatto dell'uragano aveva impostato una campagna elettorale più aggressiva rispetto a quella di Romney, che a quel punto era difensiva, cercava di mantenere il vantaggio acquisito nel primo dibattito. Il presidente ha impostato una campagna più aggressiva che gli ha consentito di risalire la china. A questo punto Obama si trova di nuovo in vantaggio in Ohio, si trova quasi a livello pari in Florida e dal punto di vista nazionale la distanza è minima, ma dal punto di vista della vittoria nei singoli stati Barack Obama sembra in vantaggio in quelli chiave. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E ritroveremo Platero alle 13.45 con America 24. Per tornare invece in Italia, migliora la situazione. Un'Italia attraversata nelle ultime ore da una violenta ondata di maltempo. La tempesta di Halloween, annunciata dalle previsioni, c'è stata su molte regioni italiane, dal Friuli alla Puglia, e ha provocato anche una vittima. A Gaeta, un'anziana donna di 82 anni è stata travolta in strada dalle forti piogge. Disagi anche a Roma e in molte province del Lazio, con allagamenti e sgomberi. In Campania, nel Salernitano, diverse famiglie sono state fatte evacuare, mentre sono stati interrotti i collegamenti con le isole maggiori, ora ripristinati. Situazione difficile anche in Liguria, in particolare nello Spezzino e nel Salento. A Qualta, Venezia, dove ha raggiunto il 1,40 m sul medio mare, e a Trieste. Il peggio però per il momento è passato. Il maltempo abbandonerà la gran parte delle regioni fino a sabato, quando in serata si farà viva una nuova perturbazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La pagina economica: la Germania crescerà dello 0,8% quest'anno e dell'1% nel 2013, molto meno dell'1,6% previsto inizialmente a causa delle difficoltà nell'Eurozona. A parlare così il ministro dell'economia tedesco Philipp Rösler. E qualche piccolo segnale di ottimismo arriva invece dalla congiuntura flash di ottobre di Confindustria. Sentiamo Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. Si osserva un rallentamento della contrazione, c'è stato qualche dato positivo in agosto, gli indicatori di fiducia e anticipatori comunque dicono che non c'è una vera e propria svolta del ciclo all'orizzonte. Lo scenario rimane di rallentamento globale ancora in questa fase, con una grande incertezza dovuta soprattutto alle indecisioni politiche europee e anche alla svolta che potrebbe esserci in America con le elezioni presidenziali. Per l'Italia siamo in una fase ancora di turbolenza e di incertezza legata di nuovo soprattutto al quadro politico. Andiamo verso elezioni e gli investitori, ma parliamo anche di famiglie e imprese, sono prudenti perché non sanno bene quali politiche economiche verranno seguite e con quale maggioranza e da quale maggioranza fra qualche mese. Possiamo farcela, dice oggi in un'intervista l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne, che a suo modo chiede anche scuse ai fiorentini per le offese di qualche giorno fa. Da una parte il Marchionne manager internazionale, dall'altra il Marchionne patriottico. La D della Fiat continua la sua battaglia contro la FIOM. Non accetto lezioni di democrazia, spiega al Corriere della Sera, sulla decisione di licenziare 19 lavoratori dallo stabilimento di Pomigliano per assumere quelli iscritti al sindacato metalmeccanico che hanno vinto la causa per discriminazione. Un atto definito contro la Costituzione del nostro paese dalla CGIL, che ha proclamato lo sciopero generale per il 14 novembre, ma il manager spiega è coerente, la cassa integrazione è arrivata fin lì. C'è poi il Marchionne patriottico, la D della Fiat compra una pagina sulla Nazione di Firenze per chiedere scusa ai cittadini, una lettera in cui precisa di non aver mai offeso la città, né aver mai espresso giudizi su Firenze o sulle sue condizioni economiche. Insomma, Marchionne non ha mai usato l'espressione piccola povera cittadina, traduzione fallace di pretty old town, ovvero antica e graziosa cittadina, espressione effettivamente usata dal manager. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Piovono emendamenti sulla legge di stabilità alla Commissione Bilancio. Il termine per presentarli scadeva ieri alle 18, ne ha contati circa 1.600. Intanto fa ancora discutere il taglio delle province approvato ieri in Consiglio dei Ministri. 35 le province cancellate, fra le miracolate la provincia di Sondrio. Il presidente Massimo Sertori al microfono di Alessandro Milan. Sono preoccupato per quello che purtroppo potranno constatare i cittadini probabilmente già a partire dall'anno prossimo con i loro servizi, insomma. Quindi va bene, il governo va avanti con questa bandiera da sventolare che sono stati bravi a cancellare 50 province. Purtroppo la gente si renderà conto di cosa significa questo a partire da gennaio-febbraio del prossimo anno, quando non si avranno più soldi per erogare i servizi. Ma questo, insomma, ma guardi, le faccio un esempio. Le province hanno una competenza, ad esempio, sulle scuole superiori. Nella mia provincia ci sono 53 edifici di scuole superiori che sono gestite e mantenute dalla provincia, la quale ovviamente paga anche il riscaldamento. Lei sa che dalla mia parte il riscaldamento si accende 6 mesi all'anno. Sì, sì. Se tolgono le province, qualcun altro dovrà fare questo. Immagino che lo farà la regione, il comune. Il comune, esatto. Quindi se le scuole, ad esempio, a Sondrio sono concentrate tutte nella città di Sondrio, mi deve spiegare perché il sindaco di Sondrio deve pagare il riscaldamento, ad esempio, delle scuole superiori di tutti i cittadini della provincia di Sondrio, quando le tasse che sono pagate al comune di Sondrio vengono pagate dai cittadini di Sondrio e quant'altro. Il punto di Stefano Folli. 35 province in meno nelle regioni a statuto ordinario, le nuove norme anticorruzione, la legge sulla sanità. Pur con tutti i suoi limiti evidenti quando si tratta di andare oltre l'austerità economica, il governo dei tecnici ha inanellato negli ultimi giorni, anzi nelle ultime ore, una serie di risultati che lasciano pensare. Nessun governo tradizionale composto dai partiti avrebbe avuto lo slancio e la forza di superare le infinite resistenze che questi 3 provvedimenti strutturali implicano. E chi ne dubita non ha che da riguardare la storia italiana degli ultimi anni. Sono provvedimenti criticabili in qualche punto, certo, ma anche essenziali per dare l'idea che il Paese è governato e che la politica non è solo una rissa permanente, paralizzante e quindi inconcludente, come invece accade oggi, specie nel centrodestra, dove la fine dell'era Berlusconi produce effetti speciali che sembrano solo all'inizio. E fra i provvedimenti del governo di ieri, anche lo stop al ponte sullo Stretto di Messina. È di questo che torneremo a parlare fra poco in Italia in Controluce. La decisione arriva in piena notte e dopo l'ultimo pesante scontro sul tema. Il governo ha deciso di prorogare per 2 anni i termini per l'approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto. Obiettivo: verificare la fattibilità tecnica e la sussistenza delle condizioni di bancabilità. Una lunga nota di Palazzo Chigi spiega come la decisione sia dettata dalla necessità di contenimento della spesa pubblica e in linea, si specifica, con la proposta della Commissione europea di non includere più il progetto nelle linee strategiche. Un dilazionamento temporale salutato con favore dalla società per il ponte, che interpreta, come fa sapere a Radio 24, la decisione del governo come un'apertura di credito verso l'opera. In realtà, proprio 2 giorni fa, all'origine dello scontro tra i ministri Passera e Barca, ci sono stati proprio i 300 milioni di pagamento delle penali in caso di accordi rescissi. Una norma proposta nella legge di stabilità e poi stralciata. Ora l'esecutivo specifica che invece, qualora in questi 2 anni non si giungesse a una soluzione sostenibile, scatterà, si legge nella nota, la revoca di tutti i contratti tra la concessionaria Stretto di Messina ed Eurolink, il contraente generale guidato da Impregilo, ma col pagamento delle sole spese effettuate e con una maggiorazione al 10%, scrive Palazzo Chigi. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E purtroppo un aggiornamento che arriva da Madrid: sono diventate quattro le ragazze morte nella festa di Halloween che si è svolta ieri sera nell'Arena di Madrid, di cui vi parlavamo in questo notiziario, in apertura di questo notiziario. Naturalmente vi terremo aggiornati. Purtroppo anche in questo ponte dei morti si segnalano incidenti stradali e vittime. ACI e Istat hanno presentato il loro rapporto annuale sugli incidenti stradali. I numeri sono impressionanti: più di 205.000 sinistri nel 2011 e dietro ai numeri quasi 300.000 feriti con un costo sociale di milioni di euro. I morti sulle strade sono stati 3.860, in media più di 10 al giorno, con un calo però del 5,6% rispetto ad un anno prima. Gli indicatori su incidenti, feriti e morti sono sì in discesa, ma rispetto agli obiettivi europei di dimezzare i morti sulle strade in 10 anni, siamo per ora riusciti a segnare un meno 45%, comunque superiore alla media europea. Si muore più di notte nel fine settimana e 3/4 degli incidenti si è verificato su strade urbane. A questi numeri, che sono relativi ai sinistri dove intervengono le forze dell'ordine, vanno aggiunti quelli ricordati dalla Fondazione ANIA, quella delle assicurazioni: quasi 3,1 milioni di incidenti e più di 900.000 feriti. Il fatto che i numeri scendano anno dopo anno è certo una buona notizia e per il futuro la tecnologia aiuterà a mantenere questo trend. Sulle strade, con sistemi come il Tutor o altre telecamere o sensori intelligenti, ma anche sull'auto, che diventerà capace di reagire in modo automatico agli imprevisti della strada, e già oggi ci sono esempi interessanti su alcuni modelli. ma quei 3.860 morti richiamano anche la nostra coscienza e la nostra responsabilità quando siamo al volante. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al calcio, stasera Genoa-Fiorentina per la Serie A. Sentiamo invece com'è andata ieri dal nostro Carlo Genta. Ciao a tutti, ci sentiamo naturalmente alle 14 con tutti i convocati e quindi avremo modo di parlare della giornata di ieri. Il dato è che sia la Juventus che l'Inter, entrambe con grande fatica, sono riuscite a vincere e quindi andranno verso il confronto diretto di sabato sera con 4 punti che le separano. Per il resto perde il Napoli invece 1-0 a Bergamo con l'Atalanta e il Cagliari continua la sua serie magica vincendo di nuovo in maniera stavolta molto facile contro il Siena. Attenzione perché la Roma di Zeman a questo punto, perdendo a Parma, sembra davvero in crisi, quantomeno di continuità non ce n'è. Ci sentiamo dopo. Grazie, ma prima di tutti i convocati alle 14 ci saranno il GR Spettacoli, poi Italian Controluce e America 24. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Un saluto da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. Anche il mondo dello spettacolo saluta Gaia Aulenti, scomparsa a Milano. Nella sua lunga carriera non aveva firmato solo grandi progetti, ma aveva anche lavorato per il teatro. Com'è nato questo viaggio a Rennes? Correva l'anno 1985, il Festival di Pesaro aveva iniziato la sua attività qualche anno prima, avevamo già lavorato spesso con Gaia Aulenti. Mi venne proposto di curare la regia del viaggio a Rennes. In questa intervista del Piccolo Teatro, Gaia Aulenti raccontava insieme a Luca Ronconi la costruzione dello spettacolo Il viaggio a Reims di Gioacchino Rossini. Quella di Pesaro era stata la prima rappresentazione moderna dell'opera di Rossini. Aulenti e Ronconi avevano iniziato a lavorare insieme a Prato, al laboratorio di progettazione teatrale, negli anni 70. Un rapporto straordinario, come l'architetto ricordava in questa intervista tratta dagli archivi Rai. Ebbe questa occasione che Luca Ronconi mi chiese perché non facciamo una cosa insieme. E da lì mi sono messa dentro. La mia passione più forte è l'architettura, però le due cose messe insieme mi hanno, sono state molto provocanti per il mio pensiero, per la mia attitudine a fare l'architetto. No, me lo ricordo come un periodo molto divertente. Ronconi dirigeva, perché era il regista, la cosa, e io come scenografo, però voglio dire, come una discussione anche sull'interpretazione delle cose completa. Nella sua lunga carriera Gaia Aulenti ha firmato anche progetti come la riqualificazione della Gare d'Orsay e l'allestimento del Museo d'Orsay di Parigi, la ristrutturazione di Palazzo Grassi a Venezia, l'Asian Art Museum di San Francisco, l'allestimento del Museo Nazionale d'Arte Moderna del Centre Pompidou di Parigi, il Museo d'Arte Catalana di Barcellona, l'ex Scuderie del Quirinale. Sergio Escobar confermato direttore del Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa, per il triennio 2013-2016. Lo annuncia il teatro precisando che la conferma proposta dal presidente Claudio Risé è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Voltiamo pagine e parliamo sempre di arte, anche di design, ma in televisione. Parte oggi con un docudrama su Michelangelo per celebrare i 500 anni della Cappella Sistina il nuovo canale in HD Sky Arte. Il direttore di rete Roberto Pisoni. Noi abbiamo il vantaggio di colmare un vuoto editoriale che in Italia dura da parecchio tempo. Un canale di questo genere probabilmente non è mai esistito, ci sono stati esperimenti diversi, ma con un'idea editoriale di coprire un così ampio spettro di discipline probabilmente non c'è mai stata. La sfida secondo noi è quello di riuscire a coniugare profondità, lo spessore e la ricchezza di dei contenuti che andiamo a trattare con una grammatica televisiva che sappia essere anche entertaining e non respingente. Secondo me quella è

Passiamo al teatro, due suggerimenti per questi giorni di festa. Partiamo da Milano con il musical. La sensazione del momento, sbigliettamento da primato, al Nazionale La febbre del sabato sera. Nella parte di Tony Manero, che fu di John Travolta al cinema, c'è al suo primo ruolo da protagonista Gabrio Gentilini. Siamo davvero davvero felici. Pensa che adesso non vorrei parlare di numeri, però abbiamo già venduto 50.000 biglietti, oltre 50.000. Il pubblico reagisce benissimo, si alzano sempre in piedi con me a ballare alla fine, è davvero una soddisfazione bellissima, davvero, davvero grande. È davvero, davvero un grande successo, è il successo più bello che coinvolgere il pubblico, ecco. Grazie, perché abbiamo rivisto la nostra gioventù, poi però vedi anche i ragazzi, no? I giovani che si divertono tuttora tantissimo. C'è una promozione molto bella proprio per i giovani, che si chiama Stage for Young. Ogni sera il teatro mette a disposizione 100 biglietti per 100 ragazzi che vanno dall'età di 16 ai 25 anni e spendono solo 25 euro per vedere questo show. Dall'evasione del musical all'impegno civile, Chi ha paura muore ogni giorno è lo spettacolo dell'ex magistrato Giuseppe Ayala in scena al Teatro Vittoria di Roma dal 2 al 4 novembre. Ayala racconta gli anni del pool antimafia di Palermo di Falcone e Borsellino. Sentiamo l'ex magistrato al microfono di Elisabetta Fiorito. Io ho scritto un libro 2-3 anni fa che si chiama Chi ha paura muore ogni giorno, in cui ho raccontato, avendola vissuta tutta dal di dentro, la vera storia del pool antimafia di Palermo negli anni 80. Il decennio 81-82, che purtroppo si è chiuso drammaticamente nel 92. E poi è venuta l'idea di farne una trasposizione teatrale, una sorta di monologo, perché io ho scritto quel libro con una finalità divulgativa, cioè per fare conoscere questa storia, perché specialmente i giovani, per ovvie ragioni, non ne sanno quasi nulla, perché non la studiano a scuola, magari sono nati anche nel 92 o dopo, quindi, però non chiamiamolo spettacolo, perché mi mette in imbarazzo questo. È una trasposizione teatrale, insomma. Un Cirque du Soleil dedicato a Michael Jackson. Così si presenta, scritto e diretto da Jamie King, lo spettacolo che porterà The Immortal World Tour in Italia, con due sole tappe a febbraio, il 19 e 20 al Pala Olimpico di Torino e il 23 e 24 al Mediolanum di Milano. A realizzarlo con 50 ballerini, musicisti e acrobati internazionali, il Michael Jackson The Immortal World e appunto il Cirque du Soleil. E per il GR Spettacoli è tutto da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.